Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Beh, come sapete, ogni tanto raccogliamo un po' di notizie che arrivano da tutte le parti del mondo dove si sta cercando in qualche modo di dare risposta a questi problemi dell'energia. Beh, questa sera ho deciso di farmi aiutare in questa ricerca da Chiara Albicocco, che è una voce ben nota di Mebius, la nostra trasmissione di scienza. Ciao Chiara! Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Allora Chiara, io direi che a questo punto puoi proprio cominciare tu. Che cosa ci racconti? Sì, mi sono preparata per questa puntata serale di Mr. Kilowatt. Ho cercato un po' di notizie interessanti e partiamo subito con quella più grossa. Con quella, diciamo, che è ancora un progetto. Ma prima ti faccio una domanda. Tu sai qual è la zona della Terra in cui cadono più fulmini? L'equatore? Zone tropicali, per la precisione. Sì. Ti dico Florida piuttosto che Venezuela, piuttosto che la zona del Congo. Dove ci sono le foreste pluviali, esatto. eccetera. Il 70% dei fulmini cadono proprio su queste zone. E allora che cosa hanno pensato alcuni architetti e ricercatori? Milo Vlastic, Vuk Zjorvic, Anna Lozovic, Milika Stankovic, insomma, ci siamo capiti, devono essere ricercatori dell'est. Si sono studiati una Hydra Tower, è un grattacielo con uno scheletro di grafene. Che cosa farebbe questo grattacielo installato ovviamente in queste zone tropicali? Allora, attirerebbe i fulmini, ne raccoglierebbe l'energia in alcune batterie appunto situate sulla base di questa torre di grafene, e allora a quel punto questa energia verrebbe utilizzata per l'elettrolisi. Che cos'è l'elettrolisi? È quel processo chimico che scompone le molecole di acqua, quindi H2O, in molecole più semplici di idrogeno e ossigeno. Insomma, torna alla produzione dell'idrogeno, che è un modo per accumulare energia, siccome i fulmini non è che capitano di solito nel momento in cui tu hai bisogno di energia elettrica, hai bisogno di accumulare questa energia. E lo sappiamo che il problema della produzione di idrogeno è proprio dovuta al fatto che l'elettrolisi è molto costosa. In questo caso l'abbattimento dei costi sarebbe chiaro, perché appunto viene utilizzata l'energia di questi fulmini. Hai parlato di grafene, che cos'è questo grafene? Ecco, in maniera semplice è un composto molto molto resistente del carbonio, che è circa 200 volte più resistente dell'acciaio. Ti voglio dare un'altra notizia che riguarda l'idrogeno, che insomma è questo carburante del futuro, perché al Massachusetts Institute of Technology il professor Daniel Nocera, la culla dell'innovazione mondiale, durante un meeting recentemente dell'American Chemical Society ha presentato un'altra innovazione molto interessante, una foglia artificiale. Non è la prima volta che si parla di questo oggetto, ma normalmente produceva quantità di energia assolutamente trascurabile. Invece sono riusciti a mettere a punto una foglia artificiale che, vabbè, il modello che hanno mostrato era grande come una carta da gioco, una cosa piuttosto piccola, ma che con un'efficienza 10 volte superiore a quella della fotosintesi clorofilliana, quindi quella delle piante, insomma, riesce a produrre, sempre scomponendo l'acqua in idrogeno e in ossigeno, appunto idrogeno. Quindi mi consigli di coltivare sul mio balconcino non più i gerani, ma queste foglie. Queste foglie che mi aiutano anche a produrre acqua calda. Fantastico, pare che con 4 litri di acqua si riesca a produrre insomma abbastanza idrogeno da soddisfare i fabbisogni energetici di una casa. Ora, non si capisce bene quanto costi questa foglia artificiale, ma dovrebbe costare abbastanza poco, perché utilizza dei catalizzatori molto comuni come insomma il nickel e il cadmio, che sono sostanze non particolarmente rare, e probabilmente potrebbe funzionare, tanto per cominciare, nelle zone rurali, insomma dove non arriva la rete elettrica. Questa foglia artificiale potrebbe fare appunto la produzione di energia che serve. Interessante. Anche qui siamo in fase di progettazione o in fase di prototipo? Beh, insomma, siamo a metà, pare che si possa andare verso ormai una produzione industriale, da quello che si legge. E ora cambiamo argomento? Sì, direi di sì. Allora, ho trovato una notizia sugli oli esausti, che credo che siano un po' un fardello che ci portiamo dietro, perché ogni anno ne produciamo, pensa un po', più di 30 miliardi di litri. 30 miliardi di litri. Oli esausti sono quelli, per esempio, che tiriamo fuori dal motore, no? Una volta che abbiamo smesso. Gli oli che utilizzano i camion, che utilizzano le automobili e anche, ovviamente, l'industria. E allora, che cosa ha pensato il ricercatore britannico Howard Chase dell'Università di Cambridge di praticamente trasformare questi oli esausti in combustibile. In combustibile da riutilizzare nelle nostre auto o nei nostri camion, utilizzando che cosa? Un forno a microonde. Sì, perché la pirolisi, diciamo che è questa tecnica utilizzata, che vuol dire scindere col calore, insomma, scomporre col calore, era già stato utilizzato, ma forse energeticamente non conveniva. Sì, esatto. L'idea, infatti, di questo ricercatore è appunto l'aggiunta di un additivo che appunto catturasse in maniera più efficace e più efficiente il calore del forno a microonde. Ecco, allora, a proposito di combustibili, io mi sposto invece sui biocombustibili, perché una notizia molto interessante, molto promettente, arriva dallo US Department of Energy, quindi il Dipartimento d'Energia degli Stati Uniti, che tra l'altro è guidato dal segretario all'energia Steven Chu, premio Nobel. E il team di ricerca di questo dipartimento ha sviluppato un sistema per produrre biocombustibili a partire dagli scarti legnosi, dalla cellulosa. Sai che questa è la grande frontiera dei biocombustibili, perché la cellulosa è presente dappertutto nel regno vegetale, mentre gli amidi sono presenti solo nelle colture alimentari. Quindi il grosso problema della cellulosa è che è difficile scindere, diciamo così, le macromolecole. Perché normalmente i lieviti che tipicamente fanno fermentare gli zuccheri producono alcol, i biocombustibili, poi questo sono, appunto, si nutrono di zuccheri ma non di cellulosa. Invece questi sono riusciti a identificare un animaletto che ha un nome abbastanza carino, Clostridium celluloiticum, che è in grado di produrre isobutanolo, che è un combustibile da materiale appunto legnoso, in un unico passaggio. Bene, io vi do appuntamento a questo punto a domani. Grazie Chiara. Grazie Maurizio, grazie a tutti. Parleremo di fusione fredda, una notizia che è circolata abbastanza sottotono, lo scettico è prevalso, ma attenzione, questa volta potrebbe trattarsi di qualcosa di estremamente serio. A domani.